Ho letto molti libri e molti articoli in merito al matrimonio, alcuni veramente eccellenti, ma non ricordo di averne notato uno in modo specifico relativo alla moglie litigiosa. Il perché di questa lacuna non me lo so spiegare, ma se la Bibbia ne parla come del resto fa di tantissimi altri argomenti, credo che sia opportuno esprimersi anche su questo tema. Non per parlarne male. Ma poiché si parla del marito che deve amare la moglie, si spiega come devono vivere gli sposi. Si riflette sulle varie problematiche matrimoniali, si spiegano i doveri dei coniugi, bisogna anche affrontare l'aspetto della litigiosità di una donna, quella moglie, meno, come dicono i sinonimi, meno attaccabride, piantagrane, polemica, aggressiva, rissosa. Tutti atteggiamenti contrari alla sottomissione. Quello spirito richiesto ad ogni moglie nell'ambito del matrimonio. Per sottomissione. Meno, è bene ripeterlo ancora, meno non si intende obbedienza assoluta al marito, ma un atteggiamento di rispetto verso chi è in autorità. E se ancora non fosse chiaro, è sufficiente considerare l'atteggiamento che una persona è tenuta ad avere davanti al capo dello Stato o davanti ad un giudice, o a un poliziotto. Anche se avesse tutte le ragioni rispetto alle autorità citate, il modo di parlare sarebbe comunque rispettoso e composto. Esattamente il contrario di uno spirito aggressivo e rissoso. Vediamo cosa ne dice la Scrittura, in alcune delle sue diverse versioni. Proverbi 19:13. Un disastro per suo padre è un figlio stolto, stillicidio senza fine una moglie litigiosa. Proverbs 19:13. Un figlio stolto è una grande sciagura per suo padre, e le risse di una moglie sono il gocciolare continuo di un tetto. E ancora, Proverbi 25:24. È meglio abitare sotto l'angolo di un tetto che con una donna litigiosa in una stessa casa. Proverbi 25:24. Il quadro della moglie litigiosa presentato dalla Bibbia non è certamente roseo, però molto realista. Del resto, se la Bibbia esalta la donna saggia, se mette in evidenza la moglie giudiziosa come un dono di Dio, non si può che ritenere un grande danno avere un moglie piantagrane. Un uomo in genere sopporta molte cose, ma una moglie attaccabrighe, con il suo gocciolare continuo, ha il potere di spezzare le più grandi resistenze. Chi è quella donna che può essere una moglie litigiosa? Togliamo subito l'idea che si tratti di una donna incredula o malvagia, cattiva, perché certe caratteristiche possono abitare anche in persone credenti e virtuose. Basti pensare a quello che ha scritto l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi. Esorto Evodia, ed esorto ugualmente Sintiche ad avere un solo obiettivo nel Signore. Prego anche te, vero compagno, vieni in aiuto a queste donne, le quali hanno combattuto con me nell'Evangelo. Insieme con Clemente e gli altri miei compagni d'opera, i cui nomi sono nel libro della vita. Filippesi 4.23. Evidentemente tra Evodia e Sintiche non regnava molta armonia, anche se collaboravano assieme a Paolo e altri credenti nella predicazione del Vangelo. Così, può essere credente ma litigiosa anche la più impensabile e insospettabile delle mogli, le ombre della quale il più delle volte sono note solo al marito, che la conosce nei suoi aspetti più intimi. Se poi è una donna virtuosa, in pubblico meno, avendo un rapporto diverso meno, manifesterà impercettibilmente il suo lato sgradevole. Se virtuosa, perché questa moglie è anche litigiosa? Difficile farsene una ragione. Ma la risposta si avvicina molto all'essere dovuta proprio alla virtuosità. Sembra una contraddizione. Una persona che non possiede grandi qualità di intelligenza non si oppone a quello che vede. Non ritiene opportuno intervenire per correggere certe situazioni, accetta supinamente ogni cosa. Ma se la moglie si sente meno, non dico che lo sia meno più intelligente del marito, se si crede più capace, va da sé che si ritenga in diritto di dire la sua, di correggere gli eventuali errori del marito, si sente in dovere di prendere in mano le redini della situazione. Tutto deve essere vagliato alla luce della sua valutazione e, per forza di cose, tutto deve andare come lei considera meglio. Se poi il marito ha il coraggio di contraddirla, se ritiene opportuno dire o fare una scelta contraria al suo parere, apriti o cielo. Nulla di sbagliato nel fatto che una moglie dica la sua e desideri che l'andamento della casa e delle cose della vita vadano in un certo modo, ma il suo carattere litigioso non le permette di relazionarsi con il marito nel modo giusto. Scrive il dottore, psicologo e conferenziere Paul Tournier in un libricino dal titolo Comprendersi fra coniugi. Una moglie che parla con sicurezza di ogni argomento e di come bisogna fare e non fare dà a suo marito l'impressione di essere da lei considerato un incapace, e questo nessun marito lo sopporta. Ricordiamo ad ogni istante che i credenti, prima di essere tali, sono esseri umani come tutti gli altri. Se una parola offensiva fa male a un incredulo, a un credente non fa certamente bene. La moglie è chiamata a rivolgersi verso il marito con le dovute maniere. Se poi qualche sposa ritiene tale riflessione assurda e antiquata, continui a fare il contrario e consideri i frutti che ne ricava. Una moglie litigiosa non si diventa litigiosi per nulla. Se al mio vicino brucia un campo posso dispiacermi, ma nulla di più. Se invece questa sua disavventura provoca dei danni al mio campo, che è prossimo al suo o alla mia casa, allora la cosa mi interessa. Difficile litigare per una causa di un altro, o che non ci coinvolge più di tanto. Si può al massimo incalorirsi o innervosirsi, perché la controparte non parla come si deve, ma litigare proprio no. Posso farlo se nel corso della disputa mi sento offeso o maltrattato, e questo non fa altro se non dimostrare che si litiga solo quando si hanno degli interessi da salvare. Interessi di onore, di stima o di denaro. Soprattutto di denaro. Il denaro è la grande molla che fa andare avanti la società ed è una delle ragioni che possono dividere una coppia. Una moglie che amministra l'andamento economico familiare, avendo un suo modo di considerare il valore del denaro e come gestirlo, può benissimo amministrarlo in modo differente dall'opinione del marito. Come comportarsi allora? La soluzione sarebbe meno, e si potrebbe dire, è meno quella di parlarne, di discuterne. Non ci è un accordo, marito e moglie ne parlano serenamente. Fin qui tutto va bene, ma se dopo tutto il disaccordo rimane, teniamo presente che stiamo parlando di una donna virtuosa e intelligente, non di una che ascolta il marito e accetta tutto quello che dice. Una moglie litigiosa, quando ritiene una cosa ingiusta, non accetta che sia considerata diversamente e, quindi, che sia fatta. Non lo ammette. E se non lo approva, come può dire di sì quando nel suo cuore è no? Proprio perché è coerente con se stessa, proprio perché non vuole essere falsa e ingiusta. Punterà i piedi, alzerà la voce, si appellerà alla sua coscienza e per questo arriverà fino al litigio. Un litigio che riterrà, coscientemente o incoscientemente, giusto. Niente si ritiene giusto. Come quando si lotta per la verità. Basta osservare i talebani che per la loro causa, che ritengono sacrosanta, uccidono migliaia e migliaia di persone innocenti. Così una moglie litigiosa si sente una eroina nel tutelare ciò che lei ritiene è giusto, cosa che del resto farebbero tutti. Ma il punto debole di questo comportamento c'è. Prima di tutto, non le spetta il ruolo che svolge. Avendo il ruolo di aiuto conveniente e il conseguente dovere di sottomissione, non può opporsi con un animo litigioso. Questo è lo spirito del messaggio di Cristo e del cristianesimo. La verità va detta con chiarezza e convinzione, ma nel momento in cui si contende, si passa dalla parte del torto. 2 Timoteo 2.24. La verità deve sempre essere coniugata con l'amore, e l'amore è osservare i comandamenti di Dio, in questo caso il non essere litigiosi. Dobbiamo rimarcare che una moglie litigiosa non ha necessariamente intenti cattivi. Proprio perché è anche virtuosa, non condivide l'opinione del marito e gli si oppone tenacemente. Del resto, vivere e convivere nel modo giusto con chi la pensa diversamente non è facile per nessuno, ma una certa riflessione può aiutare a superare alcuni ostacoli. Per amore cristiano, siamo obbligati a ritenere ogni persona sincera e leale, perciò i contrasti nascono proprio per questa coerenza a ciò che si pensa. In genere riteniamo giusto il nostro pensiero, diversamente cambieremo opinione. Ma di fatto, se anche io ritengo di essere nel giusto, non necessariamente l'altro deve essere nel torto. Giungere a questa conclusione non è per nulla facile. In genere ci si arriva dopo molti anni di vita sociale. Si comprende che l'altro ha le sue ragioni, e dopo lunga riflessione si arriva anche alla conclusione che abbia una parte di ragione. Come dobbiamo comportarci? Nel caso di credenti in Cristo? Non vogliamo fare tutti la volontà di Dio? Perché questi contrasti? Chi ha ragione e chi torto? A risposta pongo una domanda. E se fosse che nessuno avesse torto? Dio non giudicherà gli uomini secondo la loro coscienza? E se marito e moglie agiscono secondo coscienza, non agiscono forse rettamente? Allora a che conclusione si arriva? Se tutti e due i coniugi hanno ragione, come si risolve la questione? Nel rispondere interroghiamoci ancora. E se fosse la volontà di Dio che due persone vivano o convivano la loro verità come due binari che mai si incrociano, cosa possiamo replicare? Ognuno deve agire secondo la luce ricevuta da Dio e lasciare a lui il giudizio finale. L'errore sta nel dire «tu non sei sincero», oppure «tu mi vuoi far del male», o ancora «sei un egoista». Sono giudizi, questi, che non ci competono, perché solo Dio conosce le intenzioni del cuore degli uomini. Ogni coniuge deve fare il possibile per andare d'accordo, senza sospettare il male nell'altro. Con questo modo di vivere è molto difficile essere litigiosi o iracondi. Perché anche se si pensa di essere nella ragione, si amerà il coniuge per la propria coerenza con se stesso, in attesa, con grande pazienza, di essere davanti al grande giudice, Cristo Gesù, il quale farà immediatamente giustizia. Ecco perché non bisogna essere litigiosi, a nulla serve, se non per peggiorare la situazione. Mettere in guardia la moglie per la sua litigiosità diventa per il marito un altro atto di amore. Che poi ottenga qualche risultato, o no, non lo riguarda, perché al credente è dato solo di ubbidire. Lasciamo a Dio i risultati. Marzo 2005. Punto. Ellero,